Qualche giorno fa è uscito in libreria Parole Avanti, Femminismo del Terzo Millennio, edito da Pallabanda. È un libro di Claudia Sarrizzu su un tema che da queste frequenze, insomma, svisceriamo sempre volentieri. Noi siamo al telefono con l'autrice, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Allora, Claudia, il tuo è un saggio che si interroga sulla comunicazione sostanzialmente e sulle questioni di genere. Ti chiedo di presentarlo un attimo. Sì, allora, come hai detto tu, punta molto il dito, diciamo, proprio sull'errata narrazione di genere, soprattutto l'errata narrazione della violenza sulle donne da parte dei media. Facendo questo mestiere mi sono ritrovata ovviamente a scontrarmi con quella che è la narrazione più diffusa, cioè soprattutto nei siti di informazione online, dove comunque regna il potere, insomma, del click, cioè quello di cercare di avere un titolo sempre più accattivante, anche morboso spesso, e questo in generale quando si parla di cronaca nera, quindi di attirare l'attenzione dei lettori con dei titoli che però spesso sono lesivi della dignità della donna. Vi faccio subito un esempio: quando si parla di un femminicidio generalmente vengono già spiegati nel titolo dei dettagli che sono delle quasi semi giustificazioni per il carnefice, quindi ha ucciso la moglie perché era geloso, ha ucciso la moglie perché aveva appena perso il posto di lavoro. Un raptus di gelosia, sì. Il raptus di gelosia, esatto. Quindi tutte parole sbagliate, soprattutto tutte parole inserite quindi in una frase che poi è l'unica poi realmente letta, perché noi sappiamo anche che la maggior parte delle volte le persone leggono i titoli, si accontentano solo di quelli e condividono nei social network quella che è l'anteprima, insomma, dell'articolo. Quindi è molto importante che i titoli e le foto vengano scelti bene, perché poi sono quelle che veicolano prima il messaggio. Un messaggio che magari noi possiamo anche capire che è sbagliato e quindi decifrare in maniera corretta, ma una persona, un ragazzo molto giovane, una ragazza molto giovane invece possono cascare in questa trappola della comunicazione. Oppure pensiamo ai titoli un po' pornografici, ne abbiamo visti tanti. Quando si parla di violenza sessuale vengono elencati dei dettagli della violenza. Tutte queste cose, insomma, io le spiego nel libro e cerco, insomma, di far capire che noi lavoriamo con le parole e bisogna essere responsabili quando si lavora con le parole, perché le parole possono essere veramente delle pietre. Ho letto che l'idea di scrivere questo libro ti è nata da un episodio della vita comune mentre facevi la spesa. Sì, allora diciamo che questo libro lo volevo scrivere da tanto tempo, proprio perché mi sono scontrata, come ti dicevo, con questo argomento tantissime volte su Globalist. Tra l'altro nel libro non si parla solo di comunicazione, ma poi c'è tutta una parte sui vari femminismi, perché non ce n'è soltanto uno, sparsi un po' nel mondo, quindi non pensiamo solo all'Italia, ma io parlo anche del Brasile, parlo anche dell'Iran, parlo delle donne musulmane, delle donne curde che hanno combattuto, insomma, non solo contro l'ISIS ma anche per i loro diritti e così via, e mi sono resa conto che quindi questo era un problema generalizzato che bisognava assolutamente affrontare, ma poi è un problema che tocchi nella vita quotidiana, cioè ti rendi conto anche semplicemente, come ho scritto, facendo la spesa e quindi incontrando spesso delle coppie nella loro vita quotidiana, che ci sono sempre degli atteggiamenti comunque di sopraffazione da parte dell'uomo molto spesso, soprattutto nelle coppie anche quelle un po' più datate, ma non solo, anche in quelle giovani. Quindi vedere, insomma, scene dove comunque la donna si maltratta e la si considera sempre un po' imbranata, un po' stupida, tutte queste cose sono abbastanza ormai accettate dal nostro modo di, forse dalla nostra mentalità. Pensiamo che siano dei comportamenti normali, ecco, questo di voler normalizzare comportamenti che in verità sono sbagliati. Allora a un certo punto ho detto no, siccome mi considero ancora una giovane donna, ho 32 anni e faccio parte di quella generazione degli anni 80 che ha visto tanti diritti, insomma, andarsene via, però in verità non abbiamo neanche fatto molto noi negli anni 80 per comunque mantenerli e conquistarne altri, non siamo mai scesi in piazza, non c'è un movimento che ci rappresenta. Quindi in solitario ho pensato, scrivendo questo libro, di fare un po' il mio piccolo, insomma, di poter scrivere quello che secondo me è sbagliato, almeno sull'argomento, insomma, che c'entra sulla dignità delle donne, e quindi ho fatto un po' la mia rivoluzione qui in solitaria scrivendo questo testo. E un po', forse lo dico scherzando, però riguardo anche le generazioni future, sentendo coscienza un po' più pulita, il giorno che avrò un figlio potrò dire non ho potuto fare chissà cosa come quelli del 68, però nel mio piccolissimo ho portato le mie idee su questo testo, che comunque sta girando, sia ovviamente nella mia terra che nella penisola. Torno un attimo sul ruolo appunto sul nostro mestiere, sul giornalismo, perché da qualche tempo, anche grazie ai corsi di formazione continua obbligatoria, ci sono molti corsi che riguardano una corretta comunicazione di genere, quindi insomma non si può dire che, come dire, anche la parte maschile che fa questo lavoro, i giornalisti uomini, non abbiano occasione per confrontarsi su questi temi, eppure i titoli rimangono gli stessi. Perché secondo te? Sì, esatto, e per questo è proprio un problema di mentalità. Un'altra cosa che appare nel libro che io racconto è il mio impegno nelle scuole. È inutile andare da un giornalista di 50 anni a spiegargli determinate cose. Magari qualcuno di loro cambierà perché ha un senso di responsabilità, perché è una persona che fa autocritica, quindi giustamente, insomma, ogni volta, anche se è una persona non giovanissima, in qualche modo decide di mettersi d'impegno, insomma, e di i propri errori cercare di non farli più. Però è normale che questa scrittura non è che viene fatta così perché si vuole in maniera conscia fare del male alle donne. Il maschilismo è qualcosa di inconscio, io lo considero un po' una malattia, è qualcosa che abbiamo tutti, anche le donne, quindi ne parlo molto perché comunque il lavoro dobbiamo farlo anche su noi stesse, anche noi donne abbiamo questa cultura patriarcale, e quindi è normale che la maggior parte a volte di quello che ti dicevo, insomma, di titoli, foto, di scelte di un certo tipo vengono fatte anche da donne. C'è stato un caso tanto tempo fa sul Libero, era un articolo scritto da una collega, dove il titolo, che lei comunque aveva provato, perché poi c'era stato tra me e lei un confronto, lei lo aveva difeso, diceva che in quella violenza sessuale c'era stata una doppia penetrazione. Allora, bisogna dire una cosa: 2-3 giorni fa è arrivata una cosa, secondo me, molto importante. Il garante per la privacy ha condannato titoli di questo tipo, soprattutto riguardo alla violenza sessuale, perché non bisogna dare tutti questi dettagli. E quindi questa già è una piccola vittoria. Però un anno fa era impensabile comunque che qualcuno si lamentasse per cose del genere. Quindi è importante che la nostra cultura stia cambiando, il nostro modo di rapportarci a questo mestiere, e che stia cambiando anche il modo che hanno i lettori di rapportarsi ai giornali, quindi in maniera più attiva e meno passiva. E quindi questi corsi vanno benissimo, bisogna farli, l'ordine fa bene, però se non iniziamo a cambiare la testa delle nuove generazioni, diverrà semplicemente il solito regolamento imposto dall'altro, che però non viene realmente capito. Ecco, tu poco fa hai detto una cosa molto interessante che riguarda anche il ruolo dei lettori. Hanno un ruolo nel pretendere una informazione, come dire, rispettosa dei generi? Sì, assolutamente. I lettori sono come gli elettori, cioè non possono essere semplicemente dei soggetti passivi, cioè hanno anche loro una responsabilità, sia quando c'è un governo di un certo tipo perché lo hanno eletto loro, sia quando ci sono giornali di un certo tipo perché sono loro comunque in qualche modo a sovvenzionarli, perché nel momento in cui ci si lamenta in continuazione che c'è un tipo di informazione scadente, un'informazione, come ho detto prima, che lede la dignità, ma non solo delle donne, anche dei bambini. Ormai è noto, insomma, che spesso quando si parla di bambine che sono state stuprate, vengono scritti titoli come: a 9 anni costretta a prostituirsi. Allora, a 9 anni tu non ti prostituisci, come tu non puoi fare né il medico né l'impiegato, perché a 9 anni sei solo un bambino, non hai nessun tipo di scelta. Quindi a 9 anni in quel caso si parla di stupro. Quindi non è solo un problema, per cercare di generalizzare, di come si scrivono determinate cose riguardo alle donne, ma anche riguardo ai minori. Quindi tutto questo va assolutamente cambiato, ma attraverso anche chi legge. Cioè, noi dobbiamo sensibilizzare, qui intorno al discorso delle scuole, il lettore, e il lettore alla fine è il ragazzo magari delle scuole superiori che inizia a leggere le prime notizie dallo smartphone, ok? Quindi per quello io punto molto sull'informazione online. L'informazione cartacea è sempre, insomma, un po' più di nicchia, quindi noi dobbiamo insegnare a questi ragazzi come si tratta l'informazione nell'online. Parlando con gli insegnanti, loro stessi hanno detto: in effetti noi facciamo un errore, a volte quelli di lettere, insomma, portano i giornali cartacei a scuola per leggerli con gli studenti, però non si rendono conto che in verità quella non è più la loro quotidianità. Cioè, stanno insegnando una cosa che ormai i ragazzi però non toccheranno con mano nella quotidianità. Infatti loro mi hanno detto: da adesso in poi, hanno capito, dovremo proiettare, insomma, internet e fare sfogliare i giornali online e insegnare a leggere quel tipo di comunicazione, che è quello insomma che poi i ragazzi si trovano a portata di mano tutti i giorni. Tu prima, insomma, parlando invece della parte relativa ai femminismi, quindi insomma c'entra sempre con la comunicazione, direi che in questi ultimi anni i movimenti femministi sono cresciuti molto in tutto il mondo, non solo in Italia, insomma dicevi anche, appunto facevi l'esempio del Brasile e di altri contesti, e sempre sui social network si registra una sorta di reazione a questa cosa negativa, forse proprio per il fatto che stanno crescendo questi movimenti, una reazione che minimizza il problema della violenza di genere, addirittura lo nega. In occasione dello scorso 25 novembre abbiamo letto appunto di persone che scrivevano: vabbè, allora la violenza delle donne sugli uomini, cioè cose di questo tipo che si discostano molto dalla realtà dei fatti. È un fenomeno che ci si poteva aspettare, come combatterlo? Allora, anche lì non bisogna arrendersi, io credo che sia normale che quando siamo in una piattaforma come i social, quindi parlo in generale, insomma, la fine di confronto purtroppo è soprattutto sui social, perché nelle piazze stiamo scendendo sempre meno, quello che prima era il confronto, insomma, nelle manifestazioni, ormai più virtuale che reale, quindi dobbiamo prima di tutto tornare comunque ad esserci anche fisicamente, quindi ben vengano quelle che sono state le manifestazioni di una di meno, insomma anche recenti, ben venga il fatto che si stiano creando delle nuove assemblee aperte, tra l'altro, almeno qua in Italia, anche agli uomini, perché poi il nuovo femminismo deve, secondo me, contemplare anche gli uomini, non ci deve essere più questa divisione, proprio perché femminismo non è il contrario di maschilismo, femminismo non vuole sopraffare nessuno, il femminismo vuole semplicemente raggiungere la parità, quindi non ha il significato contrario del maschilismo, che invece vuole schiacciare la donna. Quindi tutte queste cose sono importanti, ed è importante, come ti ho detto, non cadere nella polemica. Noi dobbiamo utilizzare i social in maniera intelligente per fare rete, per coinvolgere anche quelle persone che magari, come dicevo, raramente escono di casa per assistere a una riunione politica in un circolo, eccetera, e magari poi attrarle invece fisicamente il giorno della manifestazione. Quindi sono tutte cose importanti, è normale che i cretini ci sono, sono tantissimi, i social network sono pieni di persone che si sfogano e vogliono in qualche modo utilizzare quella realtà virtuale, proprio perché non hanno neanche il coraggio, generalmente sono persone un po' vigliacche, per bullizzare l'avversario. Ecco, non dobbiamo, secondo me, proprio occuparcene, andare avanti nel nostro progetto, che è quello, insomma, di creare, secondo me, questa rete di donne, perché poi uno dei nostri problemi fondamentali, e questo è un problema millenario per le donne, che non abbiamo mai fatto rete, quindi per tutti questi secoli siamo state, insomma, considerate in maniera inferiore, proprio perché eravamo sempre divise. Io, Claudia, ti ringrazio, ricordo ancora una volta il titolo del tuo libro, Parole Avanti, Femminismo del Terzo Millennio, edito da Palabanda. Ho visto che c'è anche una versione ebook, giusto? Sì, sì. Sia quella cartacea che ebook. Perfetto, quindi insomma consiglio la lettura alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie mille. Grazie a voi.